Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. La madre incontra suo figlio. Gesù, grazie per la madre. Nella nostra vita abbiamo bisogno della madre, dell'incontro con lei sulla via del nostro Calvario. Madre, grazie per tutte le lacrime che hai asciugate, per gli incontri materni, per tutte le parole materne di conforto. Tutti coloro che sono venuti qui, tu li hai rincuorati e incoraggiati. Abbiamo bisogno dell'incontro con te. Quanti in questo luogo, davanti a questa stazione, hanno avuto un dialogo filiale con te? A quanti hai aperto il cuore e gli occhi per far loro riconoscere il significato della sofferenza, della tentazione e della sopportazione fiduciosa? Oh madre, eccoci alla tua scuola, sulla tua via crucis, su quella del tuo figlio, sulla via crucis della Chiesa. Noi tutti insieme, tuoi figli fedeli, ti chiediamo oggi, con il tuo amore materno, consola gli afflitti e rincuora i deboli. Aiuta tutti caduti a rialzarsi. Abbiamo bisogno di incontrarti, madre. Grazie, perché sei sulla nostra via crucis, sulla strada della nostra vita. Grazie, perché con te cresciamo come Gesù in grazia e sapienza. Cara madre, abbiamo bisogno di te in tutte le situazioni, nelle nostre notti, nelle sofferenze, nelle gioie e nel dolore. Non ci lasciare mai, e fa che mai ti lasceremo. Fa che oggi sulla via di ogni uomo vi sia il tuo volto materno e la luce che ogni cuore desidera vedere. Signore, guarisci i nostri cuori perché possano accettare la madre, aprirsi alla madre che veglia e prega per noi. Aiutaci sul cammino verso la santità. Gesù, grazie per la madre. Madre, grazie per la tua presenza qui e per l'amore che nutri per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quanto triste, quanto affranta ti sentivi, o Madre Santa del Divino Salvatore,